Incontri di Gianfranco Fabi. Staremo a sentire a lungo queste note di Mozart, di minuetto di Mozart. Buonasera a quanti ci ascoltano e buonasera a Giuseppe Dallatorre. Buonasera. Giuseppe Dallatorre è rettore dell'Università LUMSA, la Libera Università Santa Maria Assunta, università legata quindi al mondo religioso, università libera, privata, autonoma, ma direttamente collegata con il Vaticano, possiamo dirlo. Sì, certamente tra i nostri fondatori è la Santa Sede, anzi è il primo nostro fondatore. Siamo nati nel 39 in periodo di guerra incombente, ma questo ci rende l'università più antica di Roma, sia pure dopo la Sapienza, dopo molti secoli. Certo. Ecco, io non vi elenco tutte le qualifiche del professor Dallatorre, posso solo dire che è decano della Conferenza dei Lettori, di cui è stato vicepresidente, presidente onorario dell'Unione Giuristi Cattolici, è un grande esperto dei rapporti Stato-Chiesa, è docente di diritto ecclesiastico, diritto canonico, si dice così, diritto canonico. Ecclesiastico e canonico. Che differenza c'è tra ecclesiastico? Il diritto canonico è il diritto della Chiesa. La Chiesa è una grande comunità di 1.300.000.000 di persone che quindi vive giuridicamente, e questo diritto si chiama diritto canonico o diritto ecclesiale, a qualcuno preferisce. Il diritto ecclesiastico invece è una disciplina tipica di alcuni paesi, i paesi latini, i paesi tedeschi, ed è il diritto dello Stato in materia ecclesiastica. Quindi è una parte del diritto pubblico, del diritto costituzionale, del diritto. Quello che discende anche dai concordati. Esatto, certo. Ecco, lei è stato anche presidente, ed è presidente del Tribunale del Vaticano. Sì, certo. Tribunale civile e penale. Tribunale civile e penale. Da non confondere con i tribunali ecclesiastici. Che non lavora molto, fortunatamente, però. Per fortuna, sì. Qualche volta degli exploit abbiamo visto. Un paio di anni fa una situazione piuttosto delicata. Quella per il furto, la sottrazione dei documenti, se ne è occupato. Il fatto non era grave, cioè non era insolito, certo. Ma insomma non era il fatto in sé, era abbastanza un furto. Ma, sì, triste come triste, fatto, indubbiamente. Triste, molto. Come stanno i rapporti tra Stato e Chiesa in Italia in questo momento? Ma direi sono buoni. Sono buoni soprattutto perché ritengo che i momenti di grande difficoltà, quali sono quelli che il nostro paese e altri paesi stanno attraversando, la realtà della presenza del mondo cattolico, sia la Chiesa con la sua realtà istituzionale, le sue strutture, le parrocchie, eccetera, e sia anche tutte le realtà del mondi vitali, dei cattolici, le associazioni, i movimenti, costituiscono, come dire, un'iniezione quotidiana di positività in servizi e direi anche in spirito e clima. Non sentirà mai delle profezie terrificanti, ma sempre delle indicazioni di speranza. Ecco, ci vuole un po' di ottimismo costruttivo in questa fase in cui il paese ha tanti problemi, anche di coesione sociale, anche di assetto sociale. Per esempio, pensiamo all'accoglienza verso gli immigrati, certo. L'integrazione, quello che sta facendo la Caritas, che fanno molte associazioni cattoliche, magari silenziosamente, ma stanno facendole. Sì, perché il pericolo del momento contemporaneo che stiamo vivendo è quello di non essere, non avere speranza e paradossalmente non essere nemmeno disperati. Perché la disperazione porta alla forza della disperazione, certo. Molte volte, di reagire. Invece c'è una sorta di, come dire, atarassia, di lasciarsi andare, di incapacità di reagire. E questo naturalmente è molto deleterio e pericoloso. Ecco, si dice che questo Papa Francesco, che è tanto apprezzato, però forse l'Italia la vede un po' da lontano, un papa straniero, indubbiamente, un papa latinoamericano, che però rispetto ai papi precedenti forse è un po' più ecumenico, nel senso è un po' più cattolico in senso generale, tiene un po' meno ai problemi italiani, è così anche visto da vicino? Ma è difficile dirlo, certamente ha un diverso modo di impostare, di guardare le cose, anche perché ha un approccio che è un approccio tipicamente pastorale, non politico, giuridico, istituzionale. è una persona di grande profondità, di grande cultura, ma ha un approccio diverso, che mi ricorda molto quello di Giovanni XXIII. Sì, anche come, appunto, come modo di porsi. Come modo di porsi, porsi, sì, molto... con questa immediatezza, questa semplicità. Certo, sono passati 50 anni e questo Papa viene da un mondo diverso. E però questo carattere da buon parroco quasi, no? Nel senso positivo e forte dell'espressione, mi sembra che accomuni tutti e due. Ecco, Giuseppe Dalla Torre, professor Giuseppe Dalla Torre, lei come mai si è occupato, ha avuto questo interesse per la realtà della Chiesa, la realtà anche interna, appunto sul diritto? Mi sembra che è una cosa di famiglia, suo nonno. Ma sì, direi che io ho bevuto con il latte materno questa attenzione. Mio nonno è stato per 40 anni direttore dell'Osservatorio Romano, dal 1920 al 1960, e è quello che ha fatto la politica del giornale, che è rimasta nelle pagine della certo. storia durante il periodo del fascismo e del nazismo come oppositore. Il giornale ha avuto un ruolo importante a livello non solo nazionale, ma a livello internazionale. E prima ancora, giovanissimo, era stato presidente dell'Unione Popolare, poi primo presidente dell'Azione Cattolica, quindi capo di tutti i cattolici italiani. Allora, io chiaramente in famiglia ho sempre vissuto in un'atmosfera attenta a queste questioni, non tanto o non solo alle questioni strettamente ecclesiali della vita interna, quanto alle questioni dell'impegno dei cattolici nell'ambito della società e quindi anche nell'ambito in senso lato della politica. Un impegno che è stato molto forte in certi periodi, adesso è un po' in secondo piano. Come mai? Ma direi in secondo piano, mi pare, nell'ambito della politica, perché si sono scompaginati gli assetti certo. che conoscevamo, non è assolutamente in secondo piano nell'ambito dei mondi vitali della società. La scuola, l'assistenza, i servizi alla persona. Qui mi pare il mondo cattolico sia per fortuna molto... Ecco, lei come rettore di università, ovviamente l'università è indirizzata ai giovani, come vede i giovani di oggi? C'è questo molto spesso si parla di giovani in senso generale, come una generazione, quasi come una generazione perduta, i giovani attuali. Invece dobbiamo avere molta fiducia verso i giovani. Io ho una grande fiducia, riesco a vedere molte cose positive in queste nuove generazioni. Tra l'altro hanno la forza di, ma sono giovani, si capisce anche, di affrontare il mondo difficile di questi tempi, di questi giorni, con un sguardo che noi non avremmo avuto. Noi andavamo avanti, ma con un, quelli della mia generazione, sì. ma con un quadro generale di chiarezze, no? I genitori che avevano certi, i nonni, gli zii, il contesto sociale. C'era una linea in fondo già indicata. Che era tranquillizzante. Ecco, se io dovessi cominciare da giovane adesso sarei terrorizzato. Invece questi ragazzi reagiscono, secondo me, molto positivamente e meglio, ovviamente, dei loro genitori. E hanno un interesse anche verso quella che può essere un'etica nella società, non solo imparare un mestiere, ma anche imparare un modo di fare un mestiere. Io credo, assolutamente sì, io credo che tra l'altro una delle ragioni di tanti giovani di tutta l'Italia, soprattutto centro meridionale, che vengono alla nostra università, nasca proprio da questo, dal fatto che noi cerchiamo di trasmettere un programma che non è solo di formazione professionale, le eccellenze, e queste sono necessarie, ma di educazione. Educazione significa formazione generale della persona, nella sua pienezza, certo. nella sua compiutezza, e quindi naturalmente anche un'educazione ai grandi valori. La nostra è un'università cattolica aperta a tutti, quindi non è che si fa esclusione, ci sono studenti di tutte le religioni, ci sono studenti anche che non... Però c'è un quadro di valori fondamentali nei quali ci riconosciamo: la solidarietà, la pace, il rispetto della persona, la tolleranza. Ecco, tra le iniziative che ha preso la vostra università proprio nelle scorse settimane, ne parleremo nella seconda parte del programma, è questo giuramento degli economisti. Un giuramento degli economisti basato un po' sull'esperienza di Antonio Genovesi, un economista italiano forse poco conosciuto. Tra l'altro si ricordano, si festeggiano in un certo modo i 300 anni della nascita nelle prossime settimane. Ecco, questa è un'iniziativa che è all'interno di, diciamo, di una volontà della vostra università di essere presente all'interno della società italiana. Direi proprio di sì. La nostra attenzione al settore dell'economia e quindi anche i corsi di laurea, primo livello, secondo livello in materie economiche, vogliono avere un taglio particolare, cioè vogliono guardare specificamente a quella dimensione dell'economia che è l'economia cosiddetta civile o sociale. Che è proprio l'economia di Antonio Genovesi, esatto. L'economista civile. Incontri. Riprendiamo il nostro incontro con il professor Giuseppe Dallatore, rettore dell'Università LUMS di Roma. Abbiamo concluso la prima parte parlando di questa iniziativa, di questo lancio di un giuramento degli economisti dedicato ad Antonio Genovesi. Però prima di parlare di questo, perché Mozart le piace? Perché mai le piace Mozart, professor Dallatore? Ma io sono molto legato alla musica classica, Mozart, Beethoven, Bach, ovviamente. Però trovo che Mozart è anche particolarmente moderno. Anche perché ha fatto delle grandi opere religiose, ma anche delle grandi opere profane. Come no, Don Giovanni. E quindi ecco, in questo forse c'è anche un po' la sua missione, quello che può essere. Non c'è dubbio, non c'è dubbio. L'attualizzazione il continuare nel tempo di determinati problemi che si ripresentano in forma nuova, ma la sostanza è sempre la stessa. Ecco, allora perché torniamo appunto all'economia. Antonio Genovesi, abbiamo detto, questo economista italiano, nato 300 anni fa, che è un po' il fondatore dell'economia civile, a cui si è ispirato questo giuramento. Che cosa consiste questo giuramento degli economisti? Dunque, noi siamo partiti dalla constatazione che da moltissimo tempo, sono secoli, che esiste il giuramento di Ippocrate per i medici, i quali hanno una responsabilità gravissima, certo, sul bene, sul male, sulla vita, sulle qualità della vita, sulle condizioni di vita. Mentre abbiamo riflettuto sul fatto che oggi l'economia ha, in un ambito diverso, un peso non migliore sulla vita di ciascuno di noi e della collettività insieme. E allora ci siamo chiesti, ma alla luce di ciò che ha provocato la grande crisi in cui noi stiamo vivendo, certo, che è una crisi di valori etici, è una crisi di deontologia, è una crisi di solidarietà, se appunto non dare un esempio, un via, ci augureremmo che fosse diffusivo questa nostra iniziativa tra le università italiane e magari anche al di là dei nostri confini, per dire ai ragazzi nel momento in cui conseguono la laurea, conseguono il titolo, che insomma l'economista ha la responsabilità non solo della propria professione, dei successi personali, della realizzazione di sé, eccetera, eccetera, ma anche di contribuire al bene comune. Cioè l'economista non è un matematico che deve applicare certe formule, ma è una persona che guarda la società dal lato economico, guardando appunto al fatto che nella società il protagonista è la persona. Esatto. Con tutta la sua libertà, le sue scelte, il suo arbitrio anche di fare delle scelte magari sbagliate. Non c'è dubbio, quindi l'attenzione al mercato come opportunità di mutuo vantaggio, senza discriminazioni, l'attenzione ai lavoratori mai considerati come costo, come merce, ma invece come risorsa per le imprese, riconoscere la pratica professionale per cui i fornitori, i clienti sono prima di tutto persone, con questa dignità si vogliono rispettare e onorare. Credo che questo avrà dei vantaggi anche se applicata queste linee di contenuto in questa promessa, anche in effetti nello sviluppo della vita economica. Ecco, uno sviluppo che deve essere uno sviluppo qualitativo, non solo quantitativo. In questo forse anche l'insegnamento di Genovesi di guardare alla società nel suo complesso è qualcosa che va al di là delle ricette degli economisti, diciamo così, moderni, molto monetaristi, molto strutturalisti, molto che guardano agli effetti concreti di scelte economiche, magari poi andando al di là di quelle che sono le scelte delle persone. In questo è rimettere al centro la società nel suo complesso, in cui non ci sono degli individui, ma ci sono delle persone. Non c'è dubbio. Si è perso nella società contemporanea, almeno in Occidente, in molti casi, non dappertutto, ma in molti casi, il senso della relazionalità, il senso che ciascuno di noi non è un'isola ma è inserito in una fitta trama di relazioni sociali e che già questo, rapporti buoni in queste relazioni, è un fattore di economicità, è un fattore di solidarismo e quindi è un fattore che anche è economicamente apprezzabile, economicamente valutabile. Io penso soltanto, non sono un economista, sono un giurista, quindi posso dire delle sciocchezze dal punto di vista economico, ma penso anche che lo vediamo oggi in un momento di grande crisi nel fatto che il settore economico che ancora tira è quello dell'impresa familiare. Certo. Questo ci fa capire qualche cosa. Si tratta di tante piccole imprese che però pare non abbiano ricevuto i colpi così forti che invece le grandi realtà economiche hanno conosciuto a ragione della crisi. Forse perché sanno reagire meglio, sanno resistere meglio, sanno anche... E ci sono questi legami che legano le persone, che rapportano le persone che sono impegnate in una solidarietà che porta a un miglioramento anche dell'impegno. Ecco, guardando l'economia da giurista, mette sicuramente anche in primo piano l'esigenza delle regole che devono essere un elemento del mercato. Il mercato non è un arbitrio o una giungla del più forte, ma è qualcosa che va guidato, va anche corretto. Fino a un certo punto. Ma io credo di sì, anche perché non è un caso che il mercato, come noi lo conosciamo, è ancora il frutto nel bene e nel male, ma direi in questo caso nel bene, della tradizione europea e della tradizione in particolare europea occidentale, che è caratterizzata da due fattori culturalmente importanti. Uno è il diritto. La nostra cultura è una cultura giuridica, una sì. cultura delle regole. E l'altra l'etica. E non dobbiamo dimenticare il fatto che il cristianesimo ha forgiato la nostra identità. Possiamo essere credenti e non credenti, possiamo sentirci appartenenti ad una chiesa o meno, però certo l'identità di noi europei e anche quindi degli americani del nord e del sud che nascono dalla nostra costola è nata da un'opera fatta di inculturazione del cristianesimo. E questo ci dà ragione sia delle tesi di un Max Weber sulle origini del capitalismo nel protestantesimo, sia delle tesi invece al contrario, per esempio di un Amintore Fanfani sulle origini cattoliche del capitalismo. Però ritorniamo sempre in un contesto cristiano. In fondo chi ha fondato per primo la banca sono stati i francescani, esatto. In Umbria con i Monti di Pietà, esatto. Per dare un supporto anche per togliere i contadini al ricatto dell'usura, ma nello stesso tempo anche per superare quelle idee che erano state portate avanti da una certa teologia, eccetera, eccetera, secondo cui non si poteva dare capitale, denaro a prestito perché si sarebbe sfruttato il tempo. Il tempo è di Dio, non è dell'uomo. Ecco, era un'idea una lunga disputa teologica, infatti. Esatto. Ma gli economisti, per tornare alla realtà del capitalismo, in fondo si sono fermati all'Adamo Smith del birraio del lattaio, che per il loro interesse ci danno la birra e il latte, ma hanno dimenticato che Adamo Smith era soprattutto un moralista, e una delle opere principali di Adamo Smith è proprio quella dedicata appunto agli interessi. Ma è interessante che proprio da noi in questi giorni si sta svolgendo una ricerca a livello internazionale che porta alla riscoperta della teologia dell'economia. Impegnativa. Ecco, da voi ricordiamolo, rettore della LUMSA, l'Università Romana, legata appunto al mondo cattolico. Quindi una teologia dell'economia. Sì, perché in fondo le radici dell'economia, come ho detto poc'anzi, sono delle radici che si rifanno alla tradizione giudaico-cristiana. Sarebbe interessante fare un'analisi anche della stessa terminologia economica per rivedere il dato biblico che riappare. E d'altra parte questa riflessione diventa importante in un momento di crisi, in un momento di dispersione valoriale. Mi piace fare questo esempio. Dopo l'11 settembre si è riscoperta la tematica della teologia politica, che aveva appassionato gli studiosi medievali, il pensiero teologico, filosofico e anche giuridico medievale. Nell'età moderna lo stesso, nell'età contemporanea c'era stato il grande contributo di Carl Schmitt, il grande teorico dello Stato, che vedeva nello Stato, come dire, una chiesa, una religione secolarizzata. E invece, come dire, le critiche sempre di parte tedesca, di studiosi tedeschi, Peterson o anche Ratzinger, il giovane Ratzinger. Mentre invece nell'economia questo non è ancora avvenuto. E perché questo? Beh, probabilmente perché nell'ambito della politica ci siamo dovuti confrontare con l'altro, con il diverso, con l'estraneo, con lo straniero, con una nuova religione, una diversa religione, certo. E così via. Nell'economia forse siamo ancora noi, la nostra tradizione, come categorie concettuali, come regole, come prassi, a dominare. Non è detto che questa situazione rimanga chissà quanto, però probabilmente questo ritardo nel riscoprire una teologia dell'economia, una teologia economica, può essere legata a questo fattore. E forse è proprio per questo ritardo che si parla di economia come scienza triste, come scienza legata un po' ai numeri, come legata un po' solo alle cose e non invece un'economia legata alle persone, quindi alle grandi potenzialità delle persone che possono, e questa in fondo è anche la testimonianza del cristianesimo, avere una grande libertà, una libertà anche di sbagliare, ma anche una libertà di correggersi. Non c'è dubbio, del resto in una visione cristiana l'uomo è chiamato a trasformare o a continuare l'opera creatrice di Dio. Cioè non è un messaggio religioso che frena, che blocca, che rimane così l'uomo spettatore, no? Di una certa realtà, ma è chiamato, insomma. Quindi ecco, anche nella sua opera, diciamo così, come rettore della RUS, come docente, l'ottica è quella di dare una visione complessiva in cui non ci sono degli approcci settoriali, bisogna essere un po' teologi, un po' economisti, un po' giuristi, ma badando sempre alla persona. Ma infatti, vede, oggi uno dei motivi di crisi dell'università, del sistema universitario, è che l'università è un'idea europea che nasce nel Medioevo, sappiamo, siamo stati noi europei a inventare l'università, come convergere di tutte le scienze, l'universo, no? Certo. Verso un sapere che sappia dare significato a tutto. Oggi invece la frammentazione si è riversata anche in questi ambiti, per cui più che un universum è un pluriverso. Ecco. Allora va a finire che ci sono delle conoscenze profondissime in certi settori, ma nessun collegamento o pochi collegamenti con gli altri saperi, e questo non è positivo. Ecco, in questa prospettiva, se possiamo usare questa categoria, lei si sente ottimista guardando in avanti? Assolutamente sì. Assolutamente sì. Vedo che ci sono tante potenzialità, c'è tanta gente che ha voglia di fare, c'è tanta gente che ha sentimenti positivi e solidaristici, e penso che certamente le cose miglioreranno. Ecco, e anche richiami concreti come questo giuramento degli economisti può essere qualcosa per smuovere la coscienza, per smuovere l'attenzione. Non solo dei nostri ragazzi, ma di tutto l'ambiente in cui essi si collocano. Penso alle sedute affollate di genitori, di parenti, di amici che vengono dal profondo sud, che ha tantissime potenzialità e che però spesso viene in qualche modo depredato dalle sue intelligenze migliori, che le quali, se rimanessero al sud, potrebbero davvero essere dei fattori di decollo e di trasformazione. Beh, io penso che anche questa proclamazione pubblica di questi valori abbia già un suo significato. Anche questo è un obiettivo che si deve porre in questa realtà italiana. Grazie al professor Giuseppe Dallatore, rettore della LUMS, di essere stato con noi questa sera. Ringrazio anche quanti ci hanno seguito. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie ancora, buona domenica.